Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento ogni sabato e ogni domenica con i periodici italiani e stranieri, settimanali, mensili e quant'altro sia gradevole leggere in edicola. Allora, come primo consiglio di lettura oggi, una segnalazione da un mensile, appunto. Il mensile è Airone, nel numero di agosto. Vi farà piacere scoprire che se vi siete dedicati all'enigmistica in queste vacanze, se vi state dedicando all'enigmistica, il miglior allenamento è quello del cruciverba. Infatti Airone, facendo una classifica abbastanza dettagliata delle varie parti del nostro cervello che vengono impegnate da vari giochi, il sudoku, il trova la differenza, il rebus e il cruciverba, segnala che proprio è il cruciverba quello che stimola meglio l'emisfero sinistro deputato al linguaggio e in qualche modo ci costringe a attivare una serie di strutture per comprendere le definizioni, reperire le parole e così via. E poi naturalmente ci sono le aree coinvolte nella scrittura per completare il cruciverba medesimo. Invece il sudoku, per chi avesse piacere di saperlo, per gli appassionati, impegna il lobo occipitale per esplorare la griglia, poi pesca i numeri da un'altra parte, il lobo parietale, lo spazio ai numeri, e poi decide dove posizionarli con il lobo frontale. Poi naturalmente c'è la memoria a breve termine, perché bisogna visualizzare le varie posizioni possibili all'interno della griglia. Quindi se avete giocato molto con i cruciverba, se state ancora durante le vacanze utilizzando cruciverba, sudoku e altri giochi enigmistici, sappiate che sono un'attività molto importante anche per restaurare la mente. Così è il titolo, appunto, del dossier che Airone propone nel suo numero di agosto. E un po' molti mensili, molti settimanali propongono giochi, propongono in qualche modo inserti utili in questo periodo un po' più libero da impegni lavorativi. Pochi invece, devo dire, hanno parlato di lavoro, ma mi voglio segnalare dal mensile E, che è un mensile, come sapete, legato a Emergency e che di tanto in tanto segnaliamo qui a Magazine 24, un bell'articolo di Alessandro Portelli su due termini proprio legati a lavoro e svago, cioè il lavoro e la musica in questo caso. Portelli si occupa del lavoro nelle canzoni di Bruce Springsteen. Ora, molti di noi conoscono le canzoni di Bruce Springsteen, non so quanti facciano caso alle cose di cui Springsteen parla nelle sue canzoni. Ecco, in realtà il lavoro proprio della classe, diciamo, operaia, come si potrebbe dire utilizzando un termine magari un po' desueto, è proprio uno dei protagonisti costanti delle canzoni di Springsteen. Ad esempio, leggendo questo articolo, si apprende che in una canzone che si chiama Sherry Darling, nel disco che contiene The River, tra l'altro, che si chiama proprio The River, una delle sue canzoni più famose, i versi dicono: c'è un gran sole che picchia sull'asfalto, è una bellissima giornata, tu sei seduto accanto a me in una macchina, potremmo andare al mare. E quindi, dice Portelli, sembra un rock quasi adolescenziale, con il sole, la macchina, la ragazza. E invece i versi proseguono così: tutte le settimane ci tocca accompagnare tua madre all'ufficio di collocamento e c'è tua madre sul sedile dietro e non sta zitta un attimo. L'ufficio di collocamento è proprio l'attacco da cui Portelli poi passa a descrivere gli altri contributi delle canzoni di Springsteen. È interessante, ad esempio, sapere che nello stesso The River c'è una storia diciamo esemplare in qualche modo di alcune canzoni rock di Bruce Springsteen. Il protagonista della canzone mette incinta la sua ragazza e a 19 anni va a sposarsi, ma appunto la canzone dice: tessera del sindacato in tasca e con il vestito per le nozze. E poi spiega: di recente però non c'è tanto lavoro a causa dell'economia. Quindi un verso che, ohimè, è tornato di attualità anche in questi anni, un verso della canzone The River, che è forse la canzone più conosciuta di Bruce Springsteen. E poi un altro gioco tra il lavoro e la musica, ancora in un'altra canzone che si chiama Sweet Jenny, ed è dentro Youngstown. Youngstown Spiega Portelli, chi non conosce Youngstown pensa che la Dolce Jenny di cui si parla nella canzone e in cui si dice appunto sto sprofondando, Dolce Jenny qui a Youngstown sto sprofondando, scrive Portelli, ho pensato fosse un'altra delle figure femminili che accompagnano i protagonisti di Springsteen. Poi però quando mi hanno fatto vedere cos'era Sweet Jenny, i resti meglio di quello che è stata Sweet Jenny, cioè una enorme acciaieria a Youngstown, allora ho capito, scrive Portelli, che la canzone parlava di tutto. E l'ambiguità apre su tutta un'altra dimensione. La femminilizzazione del nome suggerisce che queste generazioni operaie si sono sentite un po' come sposate alla fabbrica. Tutto questo e molto di più in realtà nella bell'articolo di Portelli, che poi racconta anche un aneddoto. Questa stessa canzone dedicata all'acciaieria, anche se sembra dedicata a una ragazza, nasceva come una ballata melodica. Gli fecero notare proprio un responsabile di Youngstown, che dirige il centro studi della cultura operaia di Youngstown, fece notare a Springsteen che la canzone esprimeva più che altro il dolore per la perdita, per la chiusura dell'acciaieria, ma non la rabbia che pure c'era tra gli operai. Allora Springsteen cambiò la canzone e quindi iniziò a suonarla nei concerti non più in un modo acustico, ma invece in una versione elettrica, in una durissima e rabbiosa versione elettrica. Questo scrive appunto e su E Alessandro Portelli, il lavoro e le canzoni di Bruce Springsteen. E allora restiamo in qualche modo in tema economico, ma proviamo a trovare qualche spunto così diverso. Su Panorama questa settimana la crisi in sala giochi, storia di Copertina, le quotazioni dei bookmaker. Di cosa si parla? Dei siti specializzati in scommesse, dove appunto si scommette anche sulla crisi. Quante probabilità ha l'Italia di lasciare l'euro? Quanto vi pagherebbero in una scommessa del genere? C'è una grafica che ci segnala queste altre informazioni. Ad esempio, si paga 1 a 7 la possibilità che l'Italia lasci l'euro, si paga 2, quindi non si paga tantissimo l'anno di rottura dell'eurozona, questo significa che l'evento è considerato probabile. Si considera che il prossimo paese europeo che dovrà essere salvato sarà Cipro e poi la Spagna. Per Cipro, se puntate a un euro, ve ne danno 3, per la Spagna ve ne danno 4, per l'Italia ve ne danno 5, via via tutti gli altri. Converrebbe mettere un euro sulla Germania, perché in questo momento i bookmaker, segnala Panorama, possono pagarne 251 se fosse il prossimo paese europeo che deve essere salvato, quindi sarebbe un discreto incremento almeno dal punto di vista della scommessa, anche se ovviamente sarebbe non una pessima ma ancor peggio che pessima notizia, se mi passate questo superlativo un po' particolare. E allora questo per quanto riguarda la parte economica, ma io vorrei tornare invece sulla musica, la musica di cui abbiamo parlato prima, perché sapete che già da diverse settimane con il Sole 24 Ore proponiamo l'antologia dei miti del jazz e parliamo quindi di musica jazz e di musicisti jazz. Ogni giovedì esce un nuovo volume dedicato appunto a un'antologia di un grande jazzista. Questa volta volevo chiedere a Peter Bescapè, che questa mattina è in regia, di lasciare un po' più a lungo il brano che ho scelto. Di solito ne mettiamo una ventina, una trentina di secondi, ma abbiamo un brano che credo sia forse il brano jazz più conosciuto nel mondo, se escludiamo qualche incisione di Louis Armstrong. Il brano in questione è Take Five, l'autore è il Brubeck Quartet, poi vi dirò in realtà a chi è attribuita la complessa paternità di questo brano, ma poiché è universalmente noto e soprattutto è estremamente gradevole, sentiamo Take Five, Dave Brubeck. Thank you. Allora, questo era un'ampia parte di Take Five, che è forse il pezzo più famoso tra i brani jazz. Fa parte di questa antologia dei miti del jazz che trovate in edicola con Il Sole 24 Ore, questa settimana dedicata a Dave Brubeck. Tra l'altro, questa canzone Take Five è famosa anche perché è in 5/4 e nel libretto che accompagna il disco, nel libretto appunto si spiega che questo ritmo di 5/4 fu creato in realtà non da Dave Brubeck, dal pianista, ma dal suo batterista che si chiamava Joe Morello. E il pezzo poi non sarebbe neanche una produzione dello stesso Brubeck, che pure è un compositore molto prolifico, ma invece una proposta che gli fece il suo sassofonista Paul Desmond, che gli portò appunto in realtà due brani distinti tra loro, che Brubeck decise di unire, e nacque appunto Take Five, che è una storia, che è un pezzo che ormai più di 50 anni, 60 anni circa, e che è ancora assolutamente, come avete ascoltato, godibile e gradevole. E a proposito di musica, oggi con Il Sole 24 Ore trovate anche il nostro volume di domande e risposte, Misura il tuo sapere, è dedicato proprio alla musica questa volta. C'è anche una domanda sul jazz, allora io ve la faccio prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Vediamo se qualcuno tra gli ascoltatori riesce ad indovinarla, mi sembra difficilissimo onestamente. Quale musicista di cui non esistono registrazioni viene considerato dalla maggioranza dei critici il padre della musica jazz? La risposta dopo le informazioni sul traffico. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Prima che ci dovessimo fermare per le informazioni sul traffico, vi avevo posto una delle domande, una delle 200 domande che compongono il nostro libretto che trovate questa mattina in edicola con Il Sole 24 Ore, libretto dedicato alla musica. Poiché abbiamo potuto ascoltare un brano famosissimo di jazz, Take Five di Dave Brubeck, la domanda riguardava il jazz ed è: quale musicista di cui non esistono registrazioni viene considerato dalla maggioranza dei critici il padre della musica jazz? Ora, la risposta, che mi sembra onestamente molto difficile, è Buddy Bolden. Viene precisato anche che questa è una leggenda che si tramanda da decenni, alla quale tra l'altro è stato dedicato anche un romanzo. Vi posso garantire che altre domande mi sembrano decisamente più abbordabili di questa. Ad esempio, un'altra domanda, se volete, è: chi è l'autore di Azzurro, il famoso brano di Adriano Celentano? Non tutti sanno che l'autore è Paolo Conte, chansonnier e soprattutto grande autore di canzoni, prima di mettersi lui stesso a cantare le sue canzoni. Cambiamo completamente argomento, abbiamo da poco ascoltato le informazioni sul traffico, allora vi segnalo che in Danimarca hanno già lanciato l'avvio di un programma per realizzare delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Abbonamenti All You Can Drive da 400 euro e una rete di 900 colonnine in tutto il paese. Questo segnala Vanity Fair questa settimana. Dice: presto la Danimarca diventerà il paradiso delle auto elettriche grazie a una rete di rifornimento alla quale ci si potrà abbonare con piani tariffari simili a quelli per i telefoni cellulari. Secondo l'Unione Europea le auto a benzina dovrebbero sparire entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo i danesi si sono affidati a una società californiana che si chiama Better Place e che sta realizzando una rete per auto elettriche operativa tra 3 mesi. Saranno 20 stazioni automatizzate tipo autolavaggio, si resta in macchina mentre avviene la ricarica, ci saranno 900 colonnine in tutto il paese e delle tariffe agevolate. Ci saranno appunto questi abbonamenti proposti a 400 euro. Sempre da Vanity Fair si segnala che in Italia siamo per ora alla selezione dei progetti a favore degli automobilisti elettrici per arrivare alla realizzazione di 1000 nuovi punti ricarica. Si prevede che questi punti di ricarica per auto elettrica siano pronti nel nostro paese entro il 2015. Tempi un pochino diversi, d'altra parte la Danimarca ha anche, come dire, la fortuna relativa di essere un paese molto più piccolo e molto meno popolato del nostro, e quindi alcuni progetti possono essere portati avanti con maggiore celerità. Da Famiglia Cristiana, una vicenda che è tornata su alcuni giornali, è tornata su alcuni siti di recente, ma di cui ci eravamo colpevolmente dimenticati. Il colpevolmente è riferito naturalmente alla mia categoria, ai giornalisti, ai giornali, ma diciamo un po' tutti ci eravamo scordati del sequestro della nave che è stata sequestrata dai banditi somali l'8 febbraio scorso e di cui non si parla quasi più. Se ne è parlato in realtà perché c'è stata una lettera di un familiare dei sequestrati a un quotidiano e quindi da questa lettera sono tornati i mass media un po' a occuparsi della vicenda. Su Famiglia Cristiana Donatella Trotta ha un'intervista con alcuni dei familiari, in particolare la moglie del comandante e poi altri familiari del comandante. Lanciano accuse abbastanza pesanti, i familiari dicono: ci sentiamo abbandonati, siamo delusi dal governo che brancola nel buio. E tra l'altro c'è questo appello drammatico lanciato appunto dal comandante stesso, che dice: non ce la facciamo più. Secondo la denuncia della moglie del comandante, il governo sta facendo troppo poco per cercare di liberare questi marinai dai banditi somali. E il problema della pirateria è un problema che in realtà è molto più diffuso di quanto abitualmente crediamo. Persino su Vanity Fair, per dirvi, quando rivedremo i nostri ostaggi, stesso tema, quindi il sequestro della nave italiana di cui parla Famiglia Cristiana, ne parla anche Vanity Fair, intervista un signore che si chiama Pottingal Mukundan, che da 20 anni conduce appunto la lotta alla pirateria marittima, attualmente presiede il Commercial Crime Services. Parla appunto della Savina Kalin, che è la nave in ostaggio dei pirati somali, ma parla anche delle altre aree a rischio dei pirati. Dice: a ovest dell'Africa ci sono dei predoni che di rado chiedono riscatti, rubano il carico ma lasciano andare l'equipaggio. In Cina ci sono rapinatori del mare con assalti brevi, rubano le apparecchiature e i beni dell'equipaggio. Chiedono anche a Mukundan, che appunto presiede questo servizio di contrasto alla pirateria, se non si potrebbe magari armare le navi per scoraggiare i pirati, ma dice: in realtà questa sarebbe la fine del commercio internazionale, perché le navi hanno sempre avuto libero accesso nei porti in quanto non erano armate. Con soldati privati a bordo cambieremmo la faccia della navigazione. Quindi siamo in qualche modo costretti a mantenere, per il benessere di tutti quanti, questa vulnerabilità delle navi, ma la pirateria sta veramente esplodendo in alcune zone, in alcuni mari del globo, mettendo i governi a dura prova, i governi e soprattutto anche coloro che vengono poi presi in ostaggio o assaliti dai pirati, come è accaduto ai nostri connazionali. E allora, visto che abbiamo deciso di, come dire, ritornare con la memoria, con la nostra attenzione a vicende di cui parliamo un po' meno, da Vita di questa settimana una copertina dedicata alla Libia, 150 giorni sotto le bombe. Su Vita appunto un'intervista a Giovanni Innocenzo Martinelli, che è il vescovo di Tripoli, e che dice: bombe, bombe, sempre bombe, le nostre notti senza pace. Nel suo contributo Giovanni Innocenzo Martinelli dice: le bombe qui a Tripoli cadono quando scende il buio, iniziano verso le 9 della sera ogni sera dal 17 marzo in qua, è un crescendo sino alle 3 di notte. Quando viene identificato un obiettivo cominciano i sorvoli e i rimbombi, un colpo dietro l'altro, non capisco neanche cosa colpiscano con tutte quelle bombe. Quando a Baba Lizija, dove c'è il bunker di Gheddafi, colpiscono una, due, tre volte, basta, dico io, non ha più senso continuare a bombardare. Per le persone che vivono qui a Tripoli è una tortura. Questo nel contributo di Giovanni Innocenzo Martinelli su Vita, per ricordarci che ancora oggi continua questa guerra in Libia, continua la rivolta, il paese è sottoposto a una pressione incredibile, sia per appunto la guerra civile, sia anche per l'intervento della comunità internazionale. E allora veniamo a qualche tema un po' più leggero, restiamo magari sempre all'estero. Avete sicuramente sentito dire di questo trasferimento di Eto'o, di queste trattative per il trasferimento del centravanti Eto'o all'estero, anche lui appunto, restiamo in tema estero ma per questioni molto molto più gradevoli. Allora, ma chi è questo signore che presiede questa squadra del Dagestan, di cui non sapevamo granché fino appunto all'interesse per il centravanti dell'Inter? Si chiama Kerimov, Suleiman Kerimov, voleva comprarsi la Roma, è miliardario, amico di Putin e nababbo del pallone. Il suo ritratto è affidato a Gianfrancesco Turano sull'Espresso di questa settimana. Si legge tra l'altro in questo contributo dell'Espresso: i tifosi della Roma si mordono le mani, pensare che Suleiman Kerimov, il nuovo nababbo del calcio mondiale, l'uomo disposto a ingaggiare Samuele Eto'o con un triennale da 45 milioni di euro netti, è arrivato molto vicino a comprare il club giallorosso nel 2004. Ma il businessman russo e la sua Nafta Mosca erano un concorrente temibile per gli assetti di potere di Calciopoli e alla fine quindi avevano prevalso altre considerazioni. La trattativa tra la Nafta e Franco Sensi era poi saltata, Kerimov non è diventato l'Abramovic italiano e oggi a Roma devono accontentarsi del calciomercato low cost di Tom Di Benedetto. E allora vedremo se questo Kerimov riuscirà a costruire un club di tutto rispetto, noto a livello internazionale, già devo dire di notorietà ne ha avuta parecchia con questo assalto appunto al centravanti dell'Inter. Ancora sull'Espresso, nella rubrica di Marco Travaglio, che abitualmente si occupa, come sapete, di politica, ma questa volta invece si occupa di calcio, perché entra nella polemica che vede contrapposte appunto sempre l'Inter con la Juventus. Sapete che c'è una polemica annosa sull'assegnazione dello scudetto del 2006. Il presidente della Juve rivuole uno dei due scudetti tolti ai bianconeri, scrive Travaglio, perché sul coinvolgimento dell'Inter in Calciopoli è scattata la prescrizione. Ma, e questo è il contenuto polemico della rubrica di Travaglio, la stessa prescrizione che salvò la Juventus dal doping, dal problema del doping nel 94-98. Il reato, scrive, insomma c'era, quello del 94-98, ma era estinto per prescrizione. Fu, vi ricorderete, la vicenda che vide poi condannati il medico sociale Riccardo Agricola. E Giraudo venne assolto invece in primo e secondo grado, Agricola condannato in tribunale ma assolto in appello. La Suprema Corte, spiega Travaglio, dava ragione al PM Guariniello, ma disponeva l'annullamento del verdetto perché questo collegio già ritenuto che la condotta degli imputati integri il delitto di frode in competizioni sportive. E spiega Travaglio, il reato c'era ma estinto per prescrizione, quindi il problema della prescrizione viene agitato forse senza troppa memoria da parte del club bianconero, dai vertici del club bianconero. E questa era l'ultima segnalazione di lettura per questa mattina. Magazine 24, come sapete, ritorna domani mattina alla stessa ora. Io ringrazio Peter Bescapè questa mattina in regia. Grazie anche a Viola Bottoni che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Se volete informazioni su questa radio, su Radio 24, su tutti i suoi programmi, www.radio24.it. Buona giornata a tutti.